24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Bene, allora in assenza dei protagonisti che hanno preferito declinare l'invito, due considerazioni. La prima: il movimento è esploso in pochi mesi, nel disordine pretendere subito ordine nei conti comprendiamo che è complesso, ma attendiamo quanto prima la pubblicazione delle fatture promesse. Mamma mia, cosa ha combinato Milena Gabanelli? Era la più amata dai grillini, è diventata la reietta. Oppure no? Domanda semplice. Ebbene sì, ebbene sì. Che ha combinato la Milena Gabanelli? Ha fatto il suo lavoro, come fa da anni, fa la giornalista. Era stata eletta come nelle Quirinarie, vi ricordate la politica un mese fa? Dimentichiamo tutto, ma è successo un mese fa. Da portare in trionfo al Quirinale, per due notti ha tenuto l'Italia in sospeso. Accetto, non accetto, accetto, non accetto. Poi una notte tormentata, poi non accetto. Adesso che ti fa? Un'inchiesta sui finanziamenti del Movimento 5 Stelle e basta, boom, è diventata la venduta al PD e al PD meno L. Apriamo il nostro Parlamento, buongiorno cari italiani, siamo qui, siamo con Miriam Lucchetti, con Nicole Minetti, con l'alpino Peter Bescapè in regia e con il grandissimo Vincino che saluto, buongiorno, ben ritornato Vincino, eccoci, eccoci, eccoci. Vincino, c'è anche il vice direttore di Libero, tuo grandissimo amico Massimo De Manzoni. De Manzoni, ecco, eccolo qua, buongiorno, buongiorno Massimo. Buongiorno. Allora, che ha combinato la Gabanelli, Vincino? Era la più amata dai grillini e adesso? E adesso? Ma lei si è capito perché ha rifiutato, eh? Perché stava facendo... Beh, ha rifiutato perché parte del servizio l'aveva già fatto, mica poteva mandare al diavolo un servizio. Poteva dal Quirinale dire, ed ora dal Quirinale vi mandiamo in onda un servizio, non era male. È così, è il destino ingrato. La cosa più grave però è quella che c'è uno che ha detto, lei dice, cioè, no, ma il blog guadagna solo 30.000 euro all'anno, no? Allora io dico, ma se uno dei blog più importanti guadagna così poco, ma che stiamo a fare? Quando riuscirà a pagare qualche cosa questo cavolo di internet, no? Chi lo sa, La carta stampata, dai, ne dico, la prendeva soldi, li riportava qualche cosa, qualche stipendio lo pagava. Dai, lancia questa idea, aboliamo il web, forza Vincino. Poi qualche notizia ce la dà, questa cosa dell'esorcismo, questa è pure buona. Non dell'esorcismo, aspetta. No, non bruciarlo, anche perché in segreteria telefonica ci sarà una telefonata specialissima. Porca miseria, guarda che Vincino sa tutto, ma come fai a sapere le cose? Non andare troppo avanti. Allora, intanto, De Manzoni, ovviamente cosa fa Libero? Ci si butta a pesce. Titolo di Libero, prima pagina, Grillo allo spiedo. Vi divertite De Manzoni, con Grillo. Proviamo, ma non solo per la Gabanelli, perché abbiamo messo insieme un po' tutto, perché la cosa più, la Gabanelli gli ha fatto male, sì. Ma ieri poi c'è il PD che ha presentato praticamente una legge sull'ineleggibilità di tutti i parlamentari grillini. Sì, questa è una cosa di talmente ridicolo, che oggi il capogruppo Zanda fa un'intervista a Repubblica e dice, ma era una legge della scorsa legislatura riproposta, vabbè, sapete che c'è? La ritiro. Ma come la ritiri? Ma siamo... Zanda è un disastro integrale proprio. Ma siamo proprio al Luna Park. De Manzoni, quindi la notizia potrebbe essere questa, la ritira tutto questo gran casino e ritira tutto, ma dove si affida? Che poi è vero che è una legge fotocopia, cioè la stanno presentando addirittura da alcune legislature, all'inizio l'avevano pensata contro Berlusconi, poi visto che viene comodo anche contro Grillo, che poi è così Vincino, io sono andato a letto ieri pensando, stai a vedere che Berlusconi davvero non è eleggibile, e poi mi sveglio al mattino, scopro che quelli ineleggibili sono quelli del Movimento 5 Stelle, qua cambia tutto in 12 ore. Vincino, però forse la ritira Zanda, la ritira. Ma Zanda proprio è la dimostrazione che questa legge elettorale non funziona. Zanda con le preferenze non sarebbe mai stato eletto da nessuna parte del mondo, da nessun lato, ma manco al consiglio comunale uno come Zanda. Addirittura, ma è vero che era sicuro, tu guarda, che sai tutto della storia d'Italia, è vero che era il portavoce di Cossiga, no? Di... Ma Zanda era il figlio del prefetto amato da Cossiga, no? Che allora se lo porta al ministero di quello là che danno i soldi dell'editoria. Siccome l'Espresso assume sempre qualcuno dei soldi dell'editoria, se l'acchiappa subito, no? E difatti io un giorno l'incontrai 30 anni fa, che andai a trovare il principe, no, a Caracciolo. Sì. Io presentavo sempre i miei giornali di satira a Caracciolo. Sì. No? Sperando che lui piace, no, lui riguardava, invece, sorrideva, no, ma e cestinava. No, non voleva mai entrare in società con i miei giornalisti. Era bravo per questo, no? E però là mi presenta questo giovane ragazzino, no, perché Zanda. Sono anche più grande di Zanda di qualche anno, no. Un disastro. De Manzoni, questo però ci hanno provato, che fanno? Adesso fanno una legge in cui possono candidarsi solo i partiti che hanno un ex sindacalista a governare, mi pare sia questa la nuova legge del PD. Massimo, provano così. Sì, è un po' ridicolo, così come quella di ineleggibilità di Berlusconi a distanza di 6 legislature, cioè per 6 legislature è stata eletta, la sesta non era eleggibile. Lì però c'è da interpretare, cioè la legge è stata interpretata a suo favore in passato, sono cambiati i tempi, forse ci sono i grillini arrabbiati, però la storia di Grillo dimostra una cosa: se ci stai governando insieme lo fai ineleggibile, e infatti questo è qualcosa che non funziona in tutto questo, sì, questo è un po' un'area un po' da furbetti di regolare i conti dopo che gli italiani hanno votato, casomai si fa prima, non è eleggibile, non si può presentare. Ma dopo che gli italiani hanno votato, cercare di cambiare le carte in tavola è molto, cioè, un'area Grillo molto non è eletto, però condiziona la politica enormemente. No. E Grillo, e certo. Berlusconi fuori dal Parlamento, sei ogni giorno nelle piazze, peggio di Grillo, ma guarda che sarebbe un disastro per loro. Comunque la notizia del giorno non è la politica, non è, esatto, non è l'esorcismo, no, ci arriviamo tra poco, ma è un articolo di Gian Antonio Stella che dovete leggere sul Corriere, raccoglie, la verità è la recensione di un libro, che raccoglie tutte le cause più strane in Italia. Sentite questa, Vincino. Vabbè, uno ha querelato la nuora perché non fa bene gli agnolotti, che è un problema. Poi c'è questa una causa su perché uno notava su entrambi i lati della strada due donne che mostravano una le grandi tette e una il gran culo. Avrei voluto valutare meglio le misure della maggiorata, ma una violenta tirata d'orecchi della moglie mi ha fatto desistere. E non lo so quale sia il reato, forse la mia moglie che ha querelato. Poi c'è uno, il padre, che pur di pagare gli alimenti ai figli dice: piuttosto li mando in Bielorussia. Denunciato, ovviamente. E poi c'è penso, uno che scrive una lettera alla sua azienda, penso che nonostante le risorse finanziarie aziendali in rosso possiate permettervi delle gomme da masticare per comprare per la collega S.R. che ha un alito da foglia. Oh, madonna mia. E le cause pazze, questo è spaccato l'Italia. Vincino, tu vuoi parlare dell'esorcismo? Io lo so. Perché quello là, perché poi un esorcismo, cioè gli esorcismi prima duravano, c'era quello, si dimuoveva, usciva fuori cose verdi alla bocca, quell'altro, sì. E poi no, questo invece è pam, ma queste sono cose serie. Velocissimo. Sono cose serie. Cioè, prova Francesco, ti tocca e via. Dai. Mettono tutti in fila, tutti i italiani in fila e via. Levaci, ma sono cose serie. Senti il servizio anche della TV, credo, della CEI, della TV del Vaticano. Siamo in piazza San Pietro, esattamente vicino all'Arco delle Campane. La messa di Pentecoste è finita. Papa Bergoglio si avvicina come al solito ai malati che hanno partecipato alla messa. Insomma, questo è il servizio, avrebbe fatto, no, è una cosa seria, avrebbe fatto, no, addirittura De Manzoni l'ha messo in prima pagina al centro, avrebbe fatto un esorcismo, cioè si è avvicinato a un ragazzo, però si dibatte, il portavoce Vaticano dice, ma no, era solo una preghiera intensa, però avrebbe fatto l'esorcismo. Vincino, che devi dire? Mi devi mettere ulteriormente in difficoltà. Io devo dire che poi il diavolo a me mi piace quando viene sotto veste di donna bellissima, che ne so, sotto come il diavolo dire, veste Prada, insomma. No, un bel diavolo mi aspetto, se no chi mi tenta, no? De Manzoni, devo fare una domanda. Il fatto che mettiate questa notizia in prima pagina, ma un po' come tutti, vuol dire che non è che ci siano grandi notizie in questi giorni, non è che ci si stia dibattendo. No, questo è vero, dopodiché è una notizia, cioè sì. Come diceva Vincino, intanto noi avevamo un'altra idea dell'esorcismo, cioè richiedeva una cerimonia, una preparazione, invece lì è stata molto rapida, ma è una benedizione. Però che sia successo qualcosa di particolare in quel momento, le immagini lo documentano, nel senso che non è una normale preghiera, hanno fatto qualcosa di più, di diverso. Io adesso sono... non sono certo una persona a commentare, no, però effettivamente ci sono competente. Se la televisione dei vescovi dice che quello è stato un esorcismo, sono tenuto a prenderlo in considerazione. No? Vabbè, torniamo alle cose prima del traffico. C'è un'altra causa, Vincino. C'è un vigile che vuole multare una signora, una bella signora, e questa gli scrive e viene denunciata: sì, poi ti vengono i ghiribizzi e mi telefoni la notte, ma io la mia bigioia non fa le ragnatele, stronzo. Io ho tutti gli uomini che voglio, cretino. E vabbè, insomma, viene... Chi l'ha denunciato, il vigile o la signora? Immagino che il vigile abbia denunciato questa signora che gli ha detto così, come dire, il cellulare non te lo do. Vabbè, il traffico. Allora, Vincino, attento, che c'è una telefonata un po' strana. Ma tu, incredibilmente, secondo me, anche tu sei un po' posseduto, l'hai anticipata, però vabbè. 24 mattino. Sono una pensionata di Moncaglieri, in provincia di Torino. Sono arrabbiata. Io, una pensionata con 1.100 euro, devo mantenere mia figlia, 43 anni, il mio genero, che l'hanno licenziato, con due bambini. Come si fa ad andare avanti? Io non chiedo niente, chiedo solo lavoro a tutti, che si diminuissero gli stipendi, tutti, non se ne può più. Non vogliamo soldi, vogliamo lavoro! Buongiorno Vilan, i proprietari di prime case di lusso non sono i dirigenti, quindi ha ragione Fassina che devono pagare l'IVO, altrimenti si favoriscono i soliti ricchi a scapito di tutti maiuscolo. Buongiorno Alessandro Milan, tenete le mani ben strette sul volante, ma ben strette! Anche questa volta il Milan ha avuto un regalo, un rigorissimo. Arrivederci Alessandro Milan. Caro Milan, io ti volevo semplicemente dire che secondo me l'Italia è gestita da una manica, oltre che corrotti, di deficienti. Debbono ridurre la spesa, ma nessuno ci mette mano, perché fanno schifo, tutti a zappare la terra, tutti! Ciao, sono Satana e sono molto contento, voglio ringraziare il mio amico Berlusconi, la sua corte di miracoli, capi redattori di giornali suoi e poi tutti i politici maledetti che mi stanno procurando tante anime. Grazie Italia, grazie, il diavolo gode tanto. Vincino, come facevi a saperlo? Adesso come facevi a saperlo? No, ma facevi a saperlo? No, perché... non lo sapevo, guarda, ma no, era portato da questa cosa qua. Ah, era portato. Guardare i dati. Devo dire che non era male, però a me inquietava un pochettino. Comunque siamo con il condirettore del male, Vincino, e siamo col vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni, al quale voglio fare questa domanda sull'IMU, perché guardate che oggi Letta introduce in un retroscena di Repubblica un qualcosa che potrebbe polemizzare, quello che ha detto Fassina, e ha detto: e se poi arrivassimo alla tassazione delle case di lusso sull'IMU, cioè in realtà non esenzione per tutti, ma per accumulare un po' di soldi fanno pagare i proprietari delle prime case di lusso. Questa è bella per il governo delle larghe intese, come tenuta, De Manzoni. Ma guarda che io penso che ci sia già questa clausola anche nel... Ma credo nella che abbiano escluso quelle di pregio, ma gli immobili di pregio, ma adesso pare, almeno ieri Fassina diceva, si recuperano 2 miliardi se si fa pagare il 15% di quelli che sono stati esclusi, ma che sono i proprietari delle case un po' più ricche. Cioè gli aumenterebbero, dici sì. Eh sì, gliela rimetterebbero. Sì, è una forma di patrimoniale. Del resto sì, grandi, sulle grandi ricchezze, sui grandi... stipendi avevano anche già fatto una specie di cos'era, contributo di solidarietà, sì, lo chiamavano, sì. Mi pare. Cioè, non penso che sia questo che... Beh, insomma, è un voler andare a toccare in teoria le classi, no, più vicine magari, più liberali, più agiate, non lo so se la vogliamo, vicino la possiamo vedere come una lotta di classe così, insomma, è voler toccare gli... Comunque è che da un mese siamo fermi là, sì. Cioè questo governo è un disastro di quelli là. Ma non sono ancora, partito. Aspetta, quello è Renzi che chiacchiera. Ma quello, come dire, gli avevano dato tutto, lui doveva solo prendere. Era qua ieri alle 8:30, qua ha creato il casino, l'IMU, la cambiale. Ma dico io, tu che non devi chiacchierare, dovevi prendere, fai il segretario, fai il capo del governo, fai il coso, no, e lui no, aspetta. No, fa Pierino aspetta la peste. Aspetta e chiacchiera. Certo, sì. Fa Pierino la peste. Comunque, posso dire una cosa sull'IMU? Come no? L'IMU è più importante di quello che sembra, nel senso che poi hanno fatto un po' di calcoli, ma non solo brutti e cattivi redattori, capi dei giornali quelli che il diavolo che il diavolo mi aspetta il diavolo, ma ha fatto anche per esempio Ricolfi che è un sociologo di sinistra, che è uno che studia e che dice sì ragazzi, qui con l'IMU abbiamo depresso tutto il mercato della casa, ha dato una botta terribile, ha fatto svanire miliardi di ricchezza degli italiani, perché gli italiani, molti hanno investito sul mattone, sono visti la casa svalutata, perché poi dopo c'è anche questo piccolo effetto collaterale. L'IMU è importante, ma no, però L'IMU, giustamente, ma è uno dei problemi, ma certo, ma giustamente, problema. Ma certo, ma giustamente voi di Libero oggi fate tutto un focus sull'IVA, l'altro grande problema, che adesso ha lui. Ecco, allora forse quello è un po' più importante, cioè restituire 150 euro di media agli italiani va bene, non è che ci facciano schifo, ma se poi dopo l'altra parte aumenti l'IVA, che quella rimane, una volta che c'è l'aumento, basta, sei fregato. È chiaro che noi ne abbiamo tanti di problemi e uno di questi problemi anche l'IVA, ma non è che l'IMU non lo sia, perché non sono 150 euro, ripeto, agli italiani, è vero, mercato che è l'idea della tassa. Che per colpa di questa tassa è una tassa, anche se io... che è rimasta anche disoccupata, per colpa... si vendono più le case, lo Stato incassa di meno, sì. È tutto un sistema. Anche se che vale io sono continuo a essere convinto che l'IMU non sia una tassa così ingiusta, ma comunque voglio concludere così, Vincino, c'è un'altra causa di cui ti voglio leggere, allora perché ci sono i carabinieri. Che poi vengo il problema di questo libro che raccoglie le cause più strampalate, che poi dice che ci sono i carabinieri e forze dell'ordine che sono impiegate a fare questo, per esempio il furto di un anatroccolo, e allora è stato recuperato dai carabinieri che lo restituiscono ai proprietari e redigono il seguente verbale: alla vista di altri simili coetanei l'anatroccolo vi entrava gridando e festoso mentre gli altri facevano festa, l'anatra madre non si scagliò contro l'anatroccolo, cosa che avrebbe fatto qualora l'anatroccolo fosse stato estraneo, e quindi ci sono arrivati i carabinieri. Ci sono arrivati i carabinieri, vedi? L'anatra non ha reagito male, allora deve essere proprio suo figlio. È questo qua. Succede, Vincino, è in Italia, non è che. Vabbè, Vincino, grazie. Grazie a voi. E che devi dire per concludere? Vuoi dire un ultimo tuo? Allora, Renzi che non fa quello che dovrebbe fare, va bene? Sta diventando un chiacchierone pure lui, è un disastro, guarda, perché era l'ultima speranza che c'era rimasta. Il busto di Andreotti ha lacrimato? Il busto di Andreotti sta sempre là, quello non lo prende nessuno, guarda, è come... è come Provenzano, messo là, tranquillo, là, i carabinieri non lo... Per 15 praticamente tutta la trattativa era per non fare prendere Provenzano. Ah, ecco, ma adesso un pecoraio là. De Manzoni, fate un bel servizio a casa di Vincino che c'ha il busto in marmo di Andreotti, che se lo tiene lì, se lo accarezza. Vi saluto, alla prossima, c'è il giornale radio.

certo questa è la sensazione, che sia un pacco postale, ma è giusto che decidano i tribunali in questa situazione talmente complicata e che sia talmente intricata. Ma certo, fa davvero male vedere che ci siano già state tre sentenze, ognuna diversa dall'altra, in una situazione complicata con un bambino che ha già subito quello che ha subito. 24 mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sono le 8:18. Allora, vogliamo parlare di uno dei temi che in campagna elettorale era dei più sentiti, certamente. Ha ragione o torto, forse era il più sentito secondo una fetta dell'opinione pubblica e di elettori. Vale a dire il finanziamento pubblico ai partiti, che in Italia è diventato un colosso, certamente, da battere, da limare, da sforbiciare. Qualcuno sostiene che è una sorta di forma di finanziamento pubblico ci voglia per la politica, perché in fondo funziona così in gran parte delle democrazie, quindi degli altri paesi, perché far politica ha un costo. Semmai quello che è degenerato in Italia certamente è la quantità abnorme di soldi che la politica si è mangiata col finanziamento. Altri invece, in virtù anche del referendum celebre del 93, l'anno in cui gli italiani si recarono alle urne per cancellare del tutto il finanziamento pubblico ai partiti, vorrebbero cancellarlo definitivamente e dire i partiti siano in grado di vivere e stare in piedi sulle proprie gambe. Partiamo da qui per discutere con due esponenti politici, uno di quel movimento, il Movimento 5 Stelle, che da sempre dice 0 euro ai partiti. Si tratta di Luigi Di Maio, che è vicepresidente della Camera. Buongiorno e benvenuto, Di Maio. Buongiorno a voi. Saluto anche invece un deputato del Partito Democratico, che è primo firmatario di una proposta di legge dal titolo Scegli tu, l'avete ribattezzata così questa legge, Dario Nardella. Buongiorno. Buongiorno a voi. E poi ci spiegherà appunto che tipo di legge è per quel che riguarda il finanziamento ai partiti. Intanto, Di Maio, voi ci ricorda la cifra a quanto ammonta quello che vi spetterebbe per quello che avete ottenuto alle elezioni come finanziamento pubblico e che invece voi rinunciate di prendere? Dovrebbero essere circa 42 milioni di euro, ma che a nostro parere vanno in netta contrapposizione con quello che gli italiani hanno deciso nel 93 con il referendum sul finanziamento pubblico ai partiti. Io credo che sia anche abbastanza errato chiamarli rimborsi elettorali, perché in realtà i partiti non sono tenuti neanche a presentare fatture, a presentare ricevute a piè di lista, per rimborsi a piè di lista, e soprattutto incassano più di quanto spendono. Sì, era nato così, cioè per cancellare, per ovviare al fatto che gli italiani cancellarono il finanziamento pubblico, li chiamarono rimborsi elettorali, che però poi sono degenerati, nel senso era elettore. Se diamo 4,50 euro per ogni voto che prende una forza politica, alla forza politica, stiamo parlando di un finanziamento pubblico a tutti gli effetti. Sì, tra l'altro, anche se uno non va a votare, la quota della persona che non va a votare viene conteggiata, perché si conta il numero non tanto dei votanti, ma del numero degli iscritti a votare. Quindi se anche uno, diciamolo, col sistema attuale, dicesse io non vado a votare perché la mia quota non la voglio dare ai partiti, viene conteggiato comunque se è iscritto alle sezioni elettorali. Questi soldi voi cosa fate? So che c'è una richiesta per ottenerli e voi semplicemente non fate questa richiesta, e quindi dove andranno? No, resteranno nel bilancio dello Stato, magari serviranno a ridurre di un poco il debito pubblico, resteranno nel bilancio dello Stato e lo Stato avrà più disponibilità economica. È successo anche per le elezioni regionali a cui abbiamo partecipato in questi anni, non è una trovata solo di queste elezioni nazionali, ma sia in Sicilia, in Emilia Romagna, in Piemonte, noi semplicemente, se andiamo a vedere la Gazzetta dello Stato, troviamo che il Movimento 5 Stelle non ha percepito quei rimborsi, quindi restano nel bilancio dello Stato. La domanda però è questa: voi tutto questo non lo concretizzate, cioè l'avete già concretizzato in una proposta di legge, cioè perché non si sente che in Parlamento vi battete su questo fronte e si sente parlare invece del Movimento 5 Stelle per altre questioni sicuramente minoritarie, come la disfida sulle diarie? Guardi, è sicuramente un fenomeno, a mio parere, mediatico, non di tutti i media, ma di una buona parte, perché basterebbe andare sul sito della Camera dei Deputati, accedere all'area Movimento 5 Stelle di questa forza politica o addirittura alle schede personali di ogni deputato e trovare le leggi che hanno firmato e quelle per cui si stanno battendo. Questo è il punto fondamentale. Io capisco che, per esempio, Renzi dica stanno pensando solo agli scontrini, perché probabilmente Renzi guarda solo certe televisioni o legge solo certi giornali in cui si parla esclusivamente dei nostri scontrini e delle nostre diarie, di cui abbiamo parlato solo per 2 giorni su tutti i giorni da cui è iniziata questa legislatura. Guardi, tra l'altro qui l'ascolta un deputato che renziano, che più renziano non si può, è stato anche il vice sindaco, ma lo è ancora Nardella vice sindaco? No, si è dimesso da a Firenze prima di prendere l'incarico di deputato. Perché lei è primo firmatario di questa proposta di legge che, in estrema sintesi, la sintetizzo io così poi lei ce la spiega, vuole l'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti, come ha sempre chiesto anche Renzi, e l'introduzione di un sistema di credito d'imposta per cui se un privato dà una donazione fino a 10.000 euro, diciamo, poniamo 10.000 euro, gli viene restituito come credito d'imposta il 40%. Tra l'altro su questo c'è un po' da discutere, Nardella, magari, ma adesso lo facciamo. Ecco, Nardella, voi perché accusate il Movimento 5 Stelle, lo ha fatto Renzi, di non pensare a queste cose, quando invece il Movimento 5 Stelle effettivamente non gli si può dire nulla, da mesi dicono su questo tema del finanziamento pubblico ai partiti noi non vogliamo un euro? Ma guardi, noi a proposito di Renzi è da molto che poniamo il tema del finanziamento pubblico ai partiti, addirittura dalle riunioni alla Leopolda, prima ancora delle primarie. Ed è da lì che nasce infatti questa proposta di legge che prevede l'abolizione totale, come lei ricordava, del finanziamento pubblico ai partiti. Quindi non è che c'è una primogenitura del Movimento 5 Stelle su questo. La cosa che ci stupisce è che da qualche settimana si sente parlare solo del problema della diaria, che poi non si capisce come sia stata risolta dai colleghi del Movimento 5 Stelle, e cioè dei rimborsi, e non degli aspetti principali, di fondo, cioè la riduzione dei parlamentari, perché noi abbiamo un Parlamento bicamerale dove le due Camere fanno le stesse cose e abbiamo 930 parlamentari, e poi il punto cruciale, cioè le risorse che vengono date ai partiti. Solo per le elezioni del 24-25 febbraio si parla di 159 milioni di euro. Allora, io capisco che un partito può o un movimento rinunciare liberamente, ma se finalmente c'è un progetto di legge e quindi dopo tanti discorsi e ragionamenti anche un po' a vuoto, noi abbiamo preso carta e penna e abbiamo scritto una proposta, tra l'altro anche firmata da deputati al di fuori dell'area che si richiama a Renzi e anche di altri partiti, penso a Scelta Civica, sì. Abbiamo preso carta e penna, ci piacerebbe ad esempio che i colleghi del Movimento 5 Stelle lo firmassero. Ecco, interessante, ecco, per esempio. Sì. Sulla questione dell'abolizione, noi partiamo da un dato molto rapidamente. Primo, il finanziamento pubblico ai partiti non ha fatto crescere la partecipazione nei partiti tradizionali. Secondo, non ha rafforzato la rete dei circoli o delle strutture. In terzo luogo, non ha ridotto la corruzione o i reati in ambito politico. Anzi, il finanziamento. Anzi. E infine, non ha fatto diminuire i contributi dei privati. No, ma tra l'altro, anzi, la corruzione è anche aumentata. Comunque la cifra è questa, tenetela a mente, ci ha detto Nardella: 159 milioni di euro sono quelli che spettano ai partiti per le ultime elezioni. Di questi, 42 sono appunto quelli a cui faceva riferimento Di Maio e che il Movimento 5 Stelle non percepirà. Di Maio, perché non firmate per esempio la proposta di Nardella? Perché è una proposta di un altro partito e vi sembra di, come dire... Ma guardi, io vorrei dire a Nardella prima di tutto che io non so in quale aula lui sieda, ma forse dovrebbero smetterla di leggere tanto i giornali e magari guardare di più come ci comportiamo nelle commissioni e in aula. Quando si è trattato di fare dibattiti su questioni importanti, a partire da quella di ieri sulla questione Stamina, noi siamo stati propositivi e collaborativi sempre. Lo abbiamo fatto in aula, nelle commissioni e con le proposte di legge. C'è anche una nostra proposta di legge depositata sulla questione dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ovvero dei rimborsi elettorali. Se può essere addirittura migliorata con altre proposte che vengono dalla loro, meglio ancora, in sede di commissione queste proposte di legge saranno in qualche modo messe insieme e faremo la proposta di legge migliore per questo paese per togliere di mezzo il finanziamento pubblico ai partiti. Ma non mi si può dire che si parla solo di diarie, perché noi la questione diarie l'abbiamo risolta in 2 giorni, restituiremo l'eccedente e finisce tutto lì. Ma non c'è, invece... non c'è nessuno che se le terrà alla fin fine? No, questo glielo posso assicurare io, nessuno. Poi altrimenti ci risentiamo e vediamo. No, e volevo dire anche un'altra cosa, pochi giornali ma tra questi io devo apprezzare il Sole 24 Ore, hanno parlato delle nostre proposte di legge, tra cui c'è anche quella dell'abolizione degli ordini professionali in questo paese, che è un'altra grande casta. Avanti, portatela avanti, io qua quando noi, vuole gliela faccio portare avanti tutte le volte che vuole. Noi ci stiamo battendo da anni per delle questioni che adesso abbiamo tradotto in proposte di legge. Se i media non ne parlano non vuol dire che non esistono. No, certo, Nardella che voleva dire? Cioè lui dice noi abbiamo già la nostra proposta di legge, portiamo avanti... Questo non toglie che non ci possa essere una convergenza, perché assolutamente come ricordava sì, anche Di Maio, su tanti temi abbiamo votato insieme e mi fa piacere, perché poi quando si entra nel merito la contrapposizione fine a se stessa cade, come nel caso di ieri. Però appunto questa proposta di legge nostra punta anche ad un tema cruciale e mi pare soprattutto per il Movimento 5 Stelle, e cioè la questione della trasparenza. Noi prevediamo che questo credito d'imposta, che verrebbe riconosciuto al cittadino, persona fisica, attenzione, non imprese, contribuisce, decide liberamente di contribuire, debba essere dato solo a quei partiti e movimenti che mettano la trasparenza al centro. Il collega Di Maio citava il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore, ad esempio, ha calcolato che gli introiti del sito internet di Beppe Grillo, che è l'unico sito attraverso il quale si può conoscere l'attività del Movimento 5 Stelle, si aggirano tra i 5 e i 10 milioni di euro. Io penso che questa sia un'opportunità anche per soprattutto i parlamentari del Movimento 5 Stelle, che si stanno adoperando tanto nell'attività istituzionale, di fare chiarezza su questo punto della trasparenza. Del resto io cito anche la Gabbanelli, che è una giornalista amata e apprezzata dal Movimento 5 Stelle, che ha sottolineato questo punto. Che, insomma, amata e apprezzata fino a domenica, a fare forse una battaglia sulla trasparenza, perché i cittadini non solo non vogliono che i soldi vengano dati direttamente ai partiti. Sì, ma quelli che vengono dati siano rendicontati. Come vengono utilizzate le risorse? Guardate, è un tema e una domanda molto interessante, da cui voglio ripartire tra 5 minuti dopo la pubblicità. Siamo con Luigi Di Maio, che è vicepresidente della Camera, esponente del Movimento 5 Stelle, e Dario Nardella, che è esponente del Partito Democratico, anche perché su questa polemica, i soldi, sul blog, ieri Beppe Grillo ha risposto a Milena Gabanelli. Lei dice, Nardella, molto apprezzato dal Movimento 5 Stelle, insomma, dopo l'inchiesta di domenica qualche problemuccio anche Milena Gabanelli l'ha avuto con gli esponenti del Movimento o anche i militanti molto sul web che si sono mobilitati a criticarla. Da qui ripartiamo tra poco, se volete anche le chiamate 800 24 00 24, si parla di finanziamento pubblico ai partiti, ma comunque di soldi della politica. 24 mattino. Gabanelli ha fatto un servizio dicendo dove vanno i soldi, il blog finanzia il Movimento 5 Stelle, non è vero nulla, noi non finanziamo niente, abbiamo un blog che ci costa, prendiamo un po' di pubblicità per pagare i costi del blog e basta, poi si autofinanzia. Insomma, questo è Beppe Grillo ieri che ha risposto a Milena Gabanelli alle accuse, usate i soldi del blog, cioè le accuse, Milena Gabanelli ha posto le domande, voi quanto guadagnate dal blog, ci fate sapere se quello che sono alcune delle entrate del blog finanziano anche il Movimento in nome della trasparenza. Siamo con Dario Nardella, PD, e Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle. Di Maio, Nardella pone in qualche modo la stessa domanda che fa la Gabanelli, cioè è tutto trasparente secondo lei? Voi attivisti del Movimento 5 Stelle, deputati, vorreste da per esempio Beppe Grillo una chiarezza su tutte quelle che sono le entrate del blog in maniera chiara? Guardi, esistono i bilanci della Casaleggio che gestiscono quel blog. Quel blog è sostanzialmente un piccolo magazine. Beppe Grillo ci scrive, ci divulga anche i comunicati e ci dà un po' di visibilità. Il blog ci ha unito tutti in questi anni, ci ha fatto fare rete, ha messo insieme centinaia di ragazzi in tutta Italia. Ma noi la nostra campagna elettorale l'abbiamo finanziata con una raccolta fondi nazionale che ammonta a 774.000 euro, di cui abbiamo speso soltanto 300.000 euro e il resto lo abbiamo donato ai terremotati dell'Emilia, ed è notizia di pochi giorni fa che con quei soldi verrà costruita una palestra in una scuola. Ma ci tengo a precisare che la nostra campagna elettorale, lo Tsunami Tour e così via, l'abbiamo finanziato con donazioni in media di 10-20 euro per ogni cittadino che ha partecipato. Quindi... abbiamo rendicontato. Ora, se questo non va bene, mi si deve dire perché. Perché no, noi i soldi li abbiamo presi solo da quello, non dai proventi del blog, sai, che servono a mantenere un blog. No, certo, però il blog, come sai, anche, c'è anche tutta un'attività pubblicitaria, per carità, vendono i prodotti anche legati alle pillole. Ma scusi, uno dei blog più visitati al mondo, certo, come si dovrebbe mantenere? No, ma è chiaro, ma infatti, ma la questione è di, lei dice, queste sono le cifre, 764.000 euro spese in campagna elettorale. Della Gabanelli che pensa? È una traditrice, come qualcuno ha scritto? Ma no, guardi, io credo che adesso in questi giorni sia anche l'occasione ghiotta per tanti organi di stampa metterci l'uno contro l'altro. Lei ha fatto delle domande, mi è dispiaciuto che sia caduta anche lei nel tranello di state parlando solo degli scontrini, perché come le dico, lo possiamo fare anche in tempo reale, basta visitare il sito della Camera e vediamo le proposte di legge. Per il resto credo che abbiamo risposto alle sue domande, se non è sufficiente avrà modo nella sua trasmissione in futuro di riporcele, noi gliele risponderemo meglio. A me dispiace solo una cosa e vorrei chiedere anche a Nardella come si sente a proporre una legge contro i rimborsi elettorali, però sta in un partito che in questo momento li sta prendendo. Ma è arrivata la domanda. Nardella, infatti, quando si dice il PD, in realtà vada a chiederlo al suo tesoriere Misiani se voi siete la parte, diciamo, l'ala renziana del PD, ecco, definiamola tranquillamente così. Però il PD i soldi li prende a questo giro, a luglio, credo, primo anno, via, subito all'incasso. Tutto bene, dovrebbe rinunciare invece Nardella. Guardi Milan, noi come lei stesso ricordava è da un anno e mezzo, due anni che facciamo questa battaglia dentro il nostro partito, anche durante le primarie dell'anno scorso contro Bersani, che vedeva appunto la candidatura di Renzi. Quindi proprio per essere coerenti e concreti, noi non ci limitiamo a atti di buona volontà, per cui un partito o un movimento a seconda delle convenienze decide di rinunciare. Noi chiediamo che si introduca una regola che deve valere per tutti i partiti e movimenti politici, legata, ripeto, anche alla vita democratica interna a questi partiti e movimenti. Ma chiaro, però la prima battaglia la fate all'interno del partito, esatto, insomma, all'interno dello stesso del partito. Posso dire che questa battaglia sta avendo degli ottimi risultati. Il fatto che il Presidente del Consiglio Letta abbia posto tra le sue quattro priorità, ve lo ricorderete, non più di 10 giorni fa, proprio i costi della politica, lo consideriamo un nostro successo e sono fiducioso sul fatto che il Governo molto presto avanzerà una proposta proprio su questo tema. Mm-hmm. Allora, si parla, così almeno affrontiamo anche le questioni concrete che interessano gli ascoltatori e gli italiani, si parla dei finanziamenti e dei contributi all'occupazione giovanile. Bene, questi 159 milioni di euro che rimarrebbero nelle casse dello Stato, perché anche l'onorevole Di Maio sa che può rinunciare a questi soldi, ma non sa dove andranno a finire. Perché il governo non li dirotta tutti sulla... Ma magari, ma a noi lo dice, giovanile. A noi lo dice Di Maio, dice noi del Movimento 5 Stelle li lasciamo lì, quindi non penso che ci sia nulla ostia a questo ma dirottamento. Ma noi li lasciamo, c'è una proposta di legge, deve diventare un principio dell'ordinamento. Ma interessante, cioè lei Nardella dice tutti questi 159 milioni di euro, che sono quelli che per 5 anni prenderanno tutti i partiti, tranne il Movimento 5 Stelle, vengano dirottati su subito a sostegno del lavoro giovanile, visto che domani si apre questo tavolo tra il governo e le parti sociali. Fatemi sentire qualche ascoltatore. Mario D'Asti, buongiorno. Mario, dica. Sì, salve. Senta, io volevo fare un piccolo commento soprattutto al signore lì del PD. Sì, l'onorevole Nardella, dica. Esattamente. Signor onorevole, voglio dire, voi dovreste... inchinarvi un pochettino al Movimento 5 Stelle, perché se non fosse stato per loro neanche si sarebbe parlato di rimborso elettorale o comunque di rinuncia ai compensi. Avete iniziato a parlare di queste cose proprio perché il problema è stato portato avanti dal Movimento 5 Quindi dovreste inchinarvi, questo è quello che dicevo. Inchinarvi, assolutamente, perché il fatto di uscire dicendo, additando Movimento 5 Stelle, trasparenza va benissimo, probabilmente della trasparenza deve essere fatta anche all'interno del Movimento 5 Stelle, però voglio dire, da che pulpito? Sono 10-15 anni che questi signori non mettono niente online. Va bene. Non hanno fatto della propria stile. È stato chiarissimo. E vengono ad additare il Movimento 5 Stelle. Grazie Mario, è stato chiarissimo. Prima di risposta di Nardella e replica di Di Maio, Alessandro da Bologna, buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno, grazie per ospitarmi. Una proposta molto semplice. Il nostro problema è legato molto alla trasparenza. Cioè i partiti non presentano un bilancio come ad esempio un SRL. Lo so. Alcuni sono certificati. Questo c'è da dire. Il Partito Democratico è l'unico partito che ha un bilancio certificato dalla PricewaterhouseCoopers, che è una grande azienda di certificazione di bilanci. Dica. Come li certificano? Non li certificano certo come fanno con un SRL o con un SPA. Perché non c'è bisogno di presentare. So. Si informi purtroppo. Anche quelle certificazioni non sono... Cioè una certificazione farlocca, vabbè, è un'accusa un po' grave. Non è farlocca, PricewaterhouseCoopers, che fa benissimo il suo lavoro, certifica quello che, diciamo così... Il PD dice. Il partito dice. Va bene, chiaro. E quindi PricewaterhouseCoopers fa assolutamente il suo lavoro. Quindi basta presentare i bilanci come un SRL, dare la possibilità a chi vuole finanziare i partiti di detrarre al 100% tutti i finanziamenti e devono essere listati in maniera pubblica e trasparente tutte queste informazioni. In questa maniera, con questa semplice operazione che è a costo zero per lo Stato, perché attualmente lo Stato paga i partiti, in questo caso ha un meno introito, perché non introita direttamente, ma dà la possibilità ai privati di qualunque tipo di finanziare i partiti, e questi mettono online. Va bene, questa è la sua proposta. Grazie, sembra tutto molto semplice e trasparente, poi un buco nero, un pozzo nero, quello della raccolta fondi nella politica, almeno la storia degli ultimi 20 anni, dopo che hanno cancellato gli italiani nel 93 il finanziamento pubblico. Facciamo così poi non vi interrompo più. C'è il traffico e poi rientriamo da Nardella, che si deve inchinare al Movimento 5 Stelle, anche se è quel partito di cui Beppe Grillo dice tra 4 mesi scomparirà e rimarremo come Highlander solo noi e il PDL, quindi invita quelli del PD a stracciare la testa. E Renzi ieri, tra l'altro, che era qui ai nostri microfoni, ha risposto per le rime, dice Grillo va avanti a barzellette. Ecco, questo poi è il dialogo, la dialettica tra i due. Allora, Nardella del PD si vuole inchinare, come è l'invito dell'ascoltatore, a dire se non ci fosse il Movimento 5 Stelle, altro che voi adesso vi prendete la paternità di questa battaglia, se non fosse per loro. Guardi, io non mi inchino davanti a nessuno, trovo anche un po' offensivo questo. Rispondo al signor Mario D'Asti, che quando con Matteo Renzi parlavamo dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, Grillo faceva ancora gli spettacoli a pagamento in giro per l'Italia. Voglio ricordare la Leopolda del 30 ottobre 2011 o anche le battaglie fatte in campagna elettorale durante le primarie nel 2009 a Firenze. Quindi noi parliamo dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti molto prima che diventasse una diciamo battaglia o di bandiera del Movimento 5 Stelle, ed è bene ricordarlo. Sì, ma poi al di là di questo, chi è stato prima a dire, cioè che appunto, si facesse questa, cioè che portasse dei risultati concreti, chi se ne frega poi il primo che è stato con a dire. Lei, Milan. Ora, piuttosto che fare a gara su chi l'ha posto per primo, e ripeto, io non devo ringraziare nessuno, mi interessa il tema della concretezza, cioè se questo progetto di legge o un altro simile, noi ci impegniamo a portarlo in fondo con il governo non entro mesi, ma entro settimane. E in secondo luogo, come dice l'ascoltatore di Bologna, il tema della trasparenza. Ecco, piuttosto che inchinarmi a Beppe Grillo, ed io ho grande rispetto per i miei colleghi deputati che fanno un lavoro significativo in aula, però a Beppe Grillo, piuttosto che inchinarmi, vorrei chiedere chi amministra i fondi del movimento, come vengono utilizzate le risorse che passano. Ma lei lì non vede alla trasparenza. Casa degli associati, perché questo è un tema di rispetto. Semmai dovrebbe inchinarsi davanti ai suoi elettori spiegando come vengono utilizzati i soldi. Di Maio, da questo punto di vista, l'accusa è di non essere così trasparenti come invece voi vi piccate di essere, dire noi abbiamo tutto in maniera trasparente. Tutta questa faccenda a me fa ridere, perché loro ne parlano dal 2009 ma non hanno rinunciato a un euro di rimborso elettorale. Noi ne parliamo dal 2010. Dal 2009-2010, e in tutto questo non abbiamo mai preso un euro di rimborso elettorale. Ma perché voi sono uniti, siete uniti, mentre il PD una cosa importantissima, ha parlato di concretezza, di usare questi fondi per la disoccupazione giovanile. Il PD ci ha bocciato un emendamento la settimana scorsa in commissione, in cui chiedevamo che i soldi dei rimborsi elettorali venissero usati per un fondo per il microcredito alla piccola e media impresa che sta morendo. Perché ce l'hanno bocciato e adesso fanno queste proposte? Ma stiamo scherzando, a me questa cosa fa ridere in questo momento. Guardi però, stiamo Di Maio, lei parla del PD, ma come ben sa il PD è varie non anime esiste. Per adesso non esiste questo, dice, però per esempio mentre Nardella ci parla di questo, un suo collega, il capogruppo Zanda, ha fatto quello che ha fatto, che sapete, cioè questa proposta di legge per che tra l'altro è una proposta di legge che viene da vecchie legislature, riproposta, e che limiterebbe ai partiti strutturati giuridicamente riconosciuti come... Do la mia opinione. Certo, mi dica la sua opinione. Tra l'altro, scusi, guardi che Zanda, mi scusi, la premessa è che Zanda oggi su Repubblica dice non è contro il Movimento 5 Stelle e se c'è tutta sta baruffa ritiro il testo, quindi ecco la serietà della cosa. Comunque, la mia opinione è che quella proposta di legge sia una dichiarazione d'amore a Berlusconi. Significa dire: guarda, noi con loro non vogliamo avere niente più a che fare perché tu hai ancora il dubbio che noi qualche legge gliela votiamo, e invece così gli stiamo dando il segnale di netta rottura con loro, perché c'è stato un periodo in cui loro ammiccavano al Movimento 5 Stelle e Berlusconi è preoccupatissimo in questo nuovo governo che il PD possa ammiccare al Movimento 5 Stelle. Per me quella è una dichiarazione d'amore a Silvio Berlusconi, non se ne farà nulla. Non se ne farà nulla. Sentite, vi posso chiedere, anche se siete entrambi alla Camera, ma la partita sarà al Senato, ma la partita importante pare quella sulla cosiddetta presunta ineleggibilità di Berlusconi, che il Movimento 5 Stelle oggi, Vito Crimi, capogruppo al Senato, dice faremo oggi, prima seduta della giunta delle elezioni, proporremo questa proposta. Secondo lei Di Maio è ineleggibile Berlusconi? E bisognerebbe spiegare agli italiani come mai è stato eletto per tanti anni e la legge è stata interpretata a suo favore fino adesso. Guardi, la questione dell'ineleggibilità è legata al conflitto di interessi. Il conflitto di interessi non interessa solo Berlusconi, ma Berlusconi ne è l'alta rappresentazione in questo momento in questo paese. Poi, finito con Berlusconi, andiamo a vedere anche tutti gli altri conflitti di interessi che ci saranno in tanti altri partiti. Ma il punto è cercare di applicare una legge che esiste da anni, e lo scandalo è che mai è uscita fuori questa questione. Quindi per lei è ineleggibile. Fosse al Senato lo è per tutto il Movimento 5 Stelle, per tutti i 162 parlamentari. Sì, Nardella, lei che ne pensa? È una questione di lana caprile, cioè anche qui sarebbe da spiegare agli italiani come mai state al governo, il governo delle larghe intese con Berlusconi, ma parte del PD lo giudica ineleggibile. Insomma, guardi, è un impazzimento della politica. Al governo con Berlusconi ci siamo arrivati perché il Movimento 5 Stelle non ha creduto nella possibilità di sostenere un governo con noi, questo lo si deve dire, però lo dico fuori da qualunque polemica perché non mi interessa. Io continuo a ritenere che questo governo sia un governo di scopo, ha come obiettivo quello di tirar fuori l'Italia dall'emergenza impressionante che stiamo affrontando. E poi si va a votare. Ma l'ineleggibilità? Non c'è nessun progetto politico. Detto questo, sulla questione dell'ineleggibilità i parlamentari hanno, vorrei essere molto chiaro, il dovere di applicare la legge. Se su questo la legge sarà chiara, mi auguro che anche i miei colleghi, io sono alla Camera ma al Senato, si comportino in modo coerente. Ma la legge mi è quella che il capogruppo Zanda si sia espresso. Sì, certo, ma la legge è del 1957, quindi voglio dire che mica è cambiata nel frattempo, la legge è sempre quella. Quindi, infatti, e finora Berlusconi è stato giudicato eleggibile e la legge è sempre quella. Non c'è alcun dubbio, infatti al Senato sono certo che i senatori del PD applicheranno la legge, tra l'altro se ne sta discutendo e non c'è alcuna correlazione con l'impegno a sostenere questo governo. Vabbè, poi si vedrà. Io devo chiudere. Di Maio, allora lei ha detto di restituirete, visto che così ne parliamo anche qui, tutti la diaria, ci sentiremo nei prossimi giorni. Se succederà che qualcuno non vorrà restituire una parte di quella non rendicontata, che succede? È fuori dal movimento? Va bene. No, ne discutiamo insieme io e lei. No, ma dico, se qualcuno non la restituisse è fuori non dal succederà. Movimento. Non succederà. Mannaggia, ragazzi, siete tutti convinti. Non succederà, vabbè, stiamo a vedere. Intanto la ringrazio, Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle, e Dario Nardella, che è deputato del Partito Democratico. Potete riascoltare tutta la discussione sul sito radio24.it, tra pochi minuti sarà già a disposizione. E che dire, da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, redazione, il nostro alpino Peter Bescapè, regia. Ma hanno detto che è il compleanno della Paola Saluzzi, la nostra amica. Ma che non me l'avete detto? Quanti anni compie? 28? 32? Vabbè, auguri, augurissimi a Paola Saluzzi, che domani probabilmente sarà qui con noi, se vorrà. Le faremo gli auguri un po' in ritardo. Comunque, grazie, a domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Cuoa Executive Master in Finance. Informazioni su cuoafinance.it. Vi ha presentato 24 mattino.